la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:32 primi e 41 secondi in questo venerdì 10 di marzo, in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio all'ascolto, Oscar Giannino, come sempre, siate in diretta o in podcast, e vi ricordo l'indirizzo a cui candidarvi a puntate come quella di oggi. Non la facevamo ormai da un po' di giorni, della serie Italia non per giovani. Oggi c'è un testimone, un ascoltatore che si è candidato a raccontarci appunto la sua storia e quello che lo ha portato ad andare fuori, poi a tornare però in Italia, e vi spiegherà come e perché ha assunto questa decisione e di cui resta convinto. Quindi è una cosa, vedrete, che si rivolge in particolare ai giovani che studiano medicina, per così dire, non solo a loro, ma in particolare a loro. E, mi tocca però, prima di presentarlo, dire due parole su quello che è avvenuto oggi, perché forse molti non lo sanno, oppure molti che invece seguono i siti di informazione lo sanno. Questa mattina la sede del Sole 24 Ore ha subito delle perquisizioni della Guardia di Finanza, che agisce per conto della Procura di Milano, e è diventata anche formale la notizia di avvisi di garanzia. Sono indagati per false comunicazioni sociali, tra gli altri, il direttore del Sole Roberto Napoletano, l'ex amministratrice delegata Treu e l'ex presidente Benito Benedini, e altri manager della società o ex manager della società. Al centro di questa indagine, come sapete, da mesi le false comunicazioni sociali sono si riferiscono alle copie digitali dichiarate del giornale e poi cassate dall'autorità di settore. Sapete anche che l'azienda ha tenuto diversi consigli di amministrazione nel frattempo, in questo inizio d'anno, dichiarando, prima di formalizzare, ancora non sono formalizzate, i conti 2016 e le relative perdite, che è la condizione è quella del 2447 del Codice Civile, quindi a prestissimo ci sarà anche la formalizzazione del necessario aumento di capitale per ricostituire le basi patrimoniali della società. Io ho espresso in un Twitter, e lo ribadisco in diretta, la mia piena solidarietà a tutti i colleghi del Sole, perché la credibilità di ciascuno di voi, cari colleghi, io parlo da ultimissima ruota del carro, non sono dipendente, sono un collaboratore esterno a cui questa radio ha dato e confermato fiducia malgrado i miei errori, e ne sono molto grato, ma la credibilità di ciascuno di noi nel criticare gli altri nelle vicende economiche italiane risiede nella trasparenza di casa propria innanzitutto. E quindi augurarmi che la piena trasparenza venga fatta al più presto, non solo le indagini, questo ci penseranno i magistrati, l'azionista faccia il suo, tutti facciano il loro. Io voglio solo dire che a tutti i colleghi, sanno quanto noi che leggiamo gli sms che ci arrivano, che in questo momento e già da questi mesi la credibilità di quello che fa ciascuno di noi è sotto un pesante sospetto e dubbio da parte di chiunque. Queste sono le regole del gioco, bisogna sapere che è così, e non credo che possiamo fare altro se non lavorare ventre a terra, ciascuno con la testa al proprio dovere, alla propria coscienza. Però è così, la credibilità di ciascuno risiede nella trasparenza di tutti, e innanzitutto della casa propria di cui risponde gli azionisti e i manager. Ecco, allora andiamo all'argomento della puntata, appunto Italia non per giovani. Ci ha scritto, e io lo ringrazio di essersi reso disponibile in questa giornata non particolarmente felice per noi qui del gruppo Sole 24 Ore, Massimiliano Fina. Massimiliano Fina è un neurochirurgo. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buonasera a lei, buon pomeriggio, grazie per la disponibilità. E noi, si figuri il contrario, il mondo non va al contrario, sono io che ringrazio lei per rendere pubblica la sua storia e le sue considerazioni. Allora cominciamo come sempre, come facciamo con i nostri ospiti, qualunque sia la loro età e ci chiamino dall'Italia o da fuori, più sono stati collegati da fuori. Allora, lei nasce e che formazione si dà? Dove nasce? Io nasco in Puglia, in provincia di Lecce, sì. Studio in Puglia, studio medicina. Un momento, perché la dobbiamo richiamare, perché c'è il vento che sta prevalendo sulle sue parole, quindi o si mette in un posto. Lo state richiamando nel frattempo? No? Non ancora? Prova a cambiare. Allora, ecco, o fai in modo che non si senta il vento, sì, oppure non riusciamo a stare. Sì, allora, dice, sì, nasco in Puglia e che formazione segue? Dopodiché mi specializzo in neurochirurgia, sì, sempre in Puglia, a Bari, dove ho trovato una buona facoltà che mi ha anche costruito bene, e me ne rendo conto dopo praticamente 30 anni di lavoro. Fin qua tutto bene, una buona carriera universitaria, una buona carriera di specializzazione. Una volta specializzato pensavo di trovare molte strade aperte, e invece ho dovuto combattere contro tante strade che invece erano chiuse. Per un paio d'anni, dal appena specialista praticamente, sono rimasto in università perché era quello il mio sogno, quello di continuare la carriera universitaria. Per un paio d'anni ho cercato di sbarcare il lunario nel miglior modo possibile, perché non c'erano contratti né per lavoro né per università. Quindi lei rimaneva in università, ma che cos'era? Un contrattista, un borsettino? No, un portaborse. Ah, un portaborse. Chiamiamolo così, un portaborse. Spendevo le mie giornate in ospedale. Perché a quel punto, dopo la specializzazione, avrà già avuto, insomma, un'età non proprio verdissima, per così dire. No, io devo essere sincero, io sono uno di quelli fortunati, perché ho avuto la fortuna di iniziare le scuole elementari un anno prima, perché allora si poteva fare. Ho avuto la fortuna di specializzarmi, di laurearmi in 5 anni una sessione, di specializzarmi in 4 anni una sessione, per cui diciamo che mi sono specializzato a 28 anni, quindi relativamente giovane per un quindi complimentoni. Per un medico, insomma. Mm. No, ma come me ce ne sono tanti. Sì, sì, ma per carità, certo. Ripeto, dopo una bella università, dopo una bella specialità con il massimo dei voti e quant'altro, pensavo che si potessero aprire un pochettino di strade. Dopo 2 anni di assecondamento del volere dei miei docenti, di coloro i quali mi stavano portando avanti, ho deciso di cambiare strada, perché mi sono reso conto che la situazione era in stallo e sarebbe rimasta tale per chissà quanto tempo. Avendo voglia di lavorare, avendo voglia di costruire un pochettino il mio futuro, ho deciso di fare un pochettino di aprirmi un pochettino di strada. Sono stato a Lubiana semplicemente facendo una domandina via internet, mandando il curriculum e quant'altro, dove lì risiedeva uno dei luminari della mia specialità. Sono stato lì 6 mesi e a lui ho chiesto la possibilità di poter avere altre possibilità all'estero, visto, sì, che lui viaggiava molto per lavoro e quant'altro. Ho scordato un passaggio importante. Io mi sono formato anche a Londra durante la specialità con il progetto Erasmus, che è forse una delle cose migliori, sì, che esiste. E infatti ricorre sistematicamente nelle testimonianze di chi... Perché dà la possibilità di poter avere orizzonti diversi, di far conoscenza con persone che ti possono aprire la mente, sia docenti che altri studenti, perché non è detto che sia semplicemente il docente. Lei l'Erasmus l'ha fatto a che punto era dalla prova? Io ero al terzo anno di specialità, sì, quindi ho fatto un anno a Londra, al terzo anno di specialità, poi sono tornato, non ho avuto la possibilità di tornare perché mi sarebbe piaciuto molto continuare. Niente, sono stato a Lubiana 6 mesi, dopodiché ho avuto la possibilità di poter andare negli Stati Uniti, a Phoenix, in Arizona, sì, perché il mio tutor, il mio professore lì a Lubiana aveva delle conoscenze, perché viaggiava molto e operava anche all'estero, per cui mi ha dato questa possibilità. Io sono andato lì semplicemente dopo una telefonata, mi hanno accolto in modo incredibile, nel senso che mi sono trovato subito a mio agio, mi hanno fatto lavorare molto per i primi 6 mesi, in questi 6 mesi bene o male qualche cosina sono riuscito a tirarla su dal punto di vista economico, perché comunque mi sono mantenuto sulle spese, perché non avevo borse di studio, non avevo nulla, quindi tutto quanto a mio carico, a carico della mia famiglia. Dopo 6 mesi ho avuto la possibilità di scegliere se ritornare oppure rimanere, e chiaramente ho scelto di rimanere. è stata una scelta azzeccata, perché in quei 2 anni e mezzo in cui sono rimasto ho imparato tanto, cosa che purtroppo in Italia non succede, perché in Italia se vuoi imparare il mestiere lo devi rubare, e invece all'estero te lo danno. Dico, tu che cosa vuoi fare? Neurochirurgo? Vieni e ti insegno come si fa il neurochirurgo. Purtroppo poi per problemi familiari importanti sono dovuto rientrare e lì sono incominciate le varie vicissitudini, perché tutto quello che ho imparato all'estero è rimasto lì, perché in Italia c'è un'importante difficoltà a far lavorare persone che a una certa età, anche seppur giovani, hanno la possibilità di poter fare cose che magari colleghi un po' più anziani non fanno. Io devo un secondo interromperla, perché mi ha molto colpito i termini con cui si è espresso poco fa, quando ha detto, insomma, in Italia, per così dire, devi rubarle le competenze, mentre lì ho sperimentato che te le danno. E può precisare meglio, perché siccome il termine ovviamente arriva all'orecchio di chi ascolta con una certa forza e lei l'ha usato evidentemente deliberatamente per questo, posso chiederle di far capire a chi è in ascolto più o meno di preciso, con qualche esempio, in che cosa consista questa differenza che ha trovato e che ha espresso in questa maniera così energica? Certo. Allora, molto spesso in Italia, almeno per quelle che sono state le mie vicissitudini, ho notato che il professore universitario, il docente universitario, insegna dal punto di vista teorico. Ed è bravissimo, perché mi sono reso conto che teoricamente noi laureati in Italia siamo, non dico al top, però ci avviciniamo molto. Il nostro problema, il nostro tallone d'Achille è la pratica, perché noi facciamo pochissima pratica, o perlomeno non la facciamo in prima persona. Siamo nella migliore delle ipotesi da specializzanti terzi operatori, nel senso che c'è il primo operatore che opera, il secondo operatore che assiste, il terzo operatore che guarda. E non va bene. E così, questo, perché... mi perdoni, per far capire ancora meglio, fino alla fine della specializzazione più o meno capita questo, o nel corso della specializzazione poi si diventa secondi, si resta a guardare. Le faccio il mio esempio, per i primi 2 anni di specializzazione io ho fatto lo strumentista, cioè praticamente il lavoro che fa un infermiere professionale. Sì. E va benissimo, perché in questo modo si imparano i tempi chirurgici, si impara lo strumentario, si impara il nome dello strumentario. E va benissimo, va bene così. Dopo i primi 2 anni poi incominci ad avere dovresti avere un po' più di pratica. Sì. Ci si scontra però di fronte al fatto che ci sono i medici, diciamo quelli già specialisti, quelli che hanno già un contratto a tempo indeterminato, che devono lavorare. E quindi lavorano loro e tu stai a guardare, nonostante il fatto che poi incominci a maturare i tuoi anni di specialità. Mentre altrove... arrivi alla fine della specialità e ti rendi conto che sai fare poco quanto niente. A meno che non hai la fortuna di essere particolarmente, io non voglio utilizzare il termine simpatico, perché è un termine che non mi piace, entrare nelle grazie di uno di questi medici un pochettino più anziani che ti insegna tecnicamente come si fa il lavoro. Però lei dice è più l'eccezione che la regola. È più l'eccezione che la regola. Mentre altrove nella sua esperienza non è così. No, altrove chiedo un'altra cosina, a chi ascolta. Sì. In Italia non è legale utilizzare i pezzi anatomici di cadaveri per fare il praticantato. Non è legale per tanti motivi, lo è solamente durante i corsi di perfezionamento che vengono fatti annualmente nelle varie sedi universitarie, pagando una quota abbastanza significativa, soprattutto per uno specializzando o una persona che si è appena specializzata che non ha fonti di reddito. Infatti. All'estero questo non succede. Io negli Stati Uniti per i primi 6 mesi ho lavorato solo sul banco anatomico, solo sul cadavere. Io non ho messo mani sulla persona, sul paziente. Sul paziente. Nel momento in cui impari gli approcci, perché poi comunque c'è sempre qualcuno più bravo di te che ti insegna e che vede quali sono poi i tuoi progressi, Una volta che hai imparato l'approccio, poi vai in sala operatoria. Aspetti, la fermo qua perché abbiamo un minuto di traffico, siamo già in ritardo di 2 minuti e torniamo subito con lei. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta e con noi il dottor Massimiliano Fina, perdonate, ci sta raccontando dopo la specializzazione in neurochirurgia. Aspetti però, ci sono degli ascoltatori, devo fare una domanda, che dicono: ma come, la laurea è 6 anni, la specializzazione è 5 anni, come ha fatto a essere così rapido lei? È così? Sì, sono stato abbastanza rapido. Ecco, sono abbastanza rapido, quindi rassicuro il nostro ascoltatore. Il Massimiliano Fina è neurochirurgo presso l'ospedale Perino di Brindisi, posso garantire a chi ci ascolta. Ci ha spiegato la differenza nella specializzazione. Nel frattempo c'è anche chi ci manda, evidentemente, che è del ramo. C'è un ascoltatore per esempio che dice: in tirocinio qui non devi fare domande, non devi rompere le perché allora così vai a mille, se fai domande eccetera eccetera ti massacrano fino al punto di metterti nell'angolo. Questo è un ascoltatore che evidentemente sta vivendo un'esperienza diretta. Un altro ascoltatore ci chiede: non ho capito una cosa, chieda al vostro ospite, ma il fatto di non operare, adesso a me verrebbe dire in corpo dei viri, non è in corpo dei viri, è sul paziente, fino alla fine della specializzazione, cioè iniziare dopo, si deve al fatto che i curricula, gli indirizzi, i programmi sono fatti così, o è a discrezione a quel punto del tutor sotto il quale ci si sta specializzando tenerti in un angolo? È a discrezione, anche perché tenga conto che la nostra specialità, per fortuna, fino a qualche tempo fa non era molto appetibile, per cui eravamo in pochi e quindi tutto sommato qualche cosina riuscivamo a tirarla via, ma ci sono altre specialità mediche dove di specializzanti ce ne sono tanti, specialità chirurgiche, per cui è praticamente quasi impossibile dare spazio a tutti quanti. Adesso forse con il fatto che c'è la possibilità del numero chiuso potrebbe eventualmente dare un certo miglioramento poi nel tempo, però purtroppo è proprio il tempo che manca. Manca il tempo, manca probabilmente anche la voglia di impegnarsi un pochettino di più, sia da parte nostra che da parte di chi dovrebbe insegnarci. E alla fine poi si arriva alla fine del corso di specialità con un titolo di specialità altisonante, ma che molto spesso non dà garanzie di poter eseguire il proprio mestiere, il proprio lavoro nel miglior modo possibile. Scusi la domanda banale, perché molti ascoltatori dicono: ma se è così, non c'è anche un rischio poi evidente, certo, pubblico, che certo si crea? Certo, e il problema maggiore è quello. Ecco perché gran parte di noi cerca sempre poi di aumentare la propria cultura fuori, all'estero, proprio perché lì c'è molta più possibilità di poter lavorare rispetto a quel che succede da noi, lavorare dal punto di vista tecnico prima poi di entrare proprio nel giro lavorativo effettivo, insomma. E quindi è sulla base di questa esperienza che lei consiglia ai giovani colleghi, quelli più avanti insomma che stanno specializzando, è di andare per forza fuori. Assolutamente sì, assolutamente sì, senza ombra di dubbio. Io se potessi tornerei indietro rapidamente, se potessi, purtroppo non posso, e quindi il consiglio che do a tutti quelli che con i quali io ho avuto la fortuna di lavorare, ragazzi appena specializzandi, appena specialisti, è stato sempre lo stesso: andate fuori e cercate di rimanerci, perché purtroppo la situazione per il momento qui da noi in Italia è questa: basta varcare il confine e le cose cambiano in modo drastico. Lei è tornato però? Io sono tornato perché avevo dei grossi problemi familiari della mia famiglia, per cui non potevo rimanere ancora lontano, genitori anziani, un fratello disabile, per cui insomma un po' di problemi c'erano, non mi potevano raggiungere, per cui sono stato costretto a tornare e purtroppo sono costretto a rimanerci. Però ripeto, dipendesse da me tornerei subito, tralasciando una cosa importante che è anche la remunerazione, perché la remunerazione all'estero è tutta un'altra storia. tutta un'altra storia. Adesso non voglio sapere le cifre, ma come ordine di grandezza quant'è? Un quinto. Come un quinto? Cioè fuori e... Io adesso cinque volte più che qui? Sì, sì. Cinque volte più di qui e appena arrivi, perché poi quando cominci poi a lavorare in modo serio, si arrivano a percepire $600,000 l'anno, che non è una brutta cifra. Direi. Un neurochirurgo negli Stati Uniti guadagna intorno ai $600,000 l'anno. Beh, cari ascoltatori che state meditando, state facendo questo percorso di formazione, per così dire, questi sono argomenti concreti. Senta, coloro che appartenevano alla generazione a cui apparteneva anche il suo tutor italiano, riconoscevano l'esistenza di questi problemi o li negavano? No, eravamo tutti quanti sulla stessa barca e sapevamo tutti quanti che cosa bisognava fare poi per cercare di migliorare la nostra formazione professionale. E chi più chi meno è andato in giro, magari non all'estero, in altre università che davano anche da specialista possibilità di poter gestire meglio. Quindi era diffusa. Allora, sì, questo aspetto di oggi, cioè migliori medici, non solo poi meglio pagati, ma migliori medici significa gente che finisce la specializzazione operando e non apprendendolo dopo sui pazienti, a me sembra un altro aspetto molto concreto di una cosa che in termini comparati dovrebbe indurci a vedere fuori quello che c'è meglio per portarlo anche qua. Quindi ringrazio la testimonianza personale di Massimiliano Fina, neurochirurgo all'ospedale Perino di Brindisi. Continuo a invitarvi a stare in ascolto da 24. Appuntamento con me, Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva.